perché non accetta di disarmarsi? Perché è incondizionata la richiesta e la garanzia di... non c'è nessuna garanzia di fatto che la striscia di Gaza possa riessere bombardata nello stesso modo come di fatto hanno fatto in questi ultimi 10 anni. C'era già stata, non so se vi ricordate, una diciamo più breve guerra nel novembre del 2012 dove avevano raggiunto degli accordi ben precisi che anche quella volta Israele aveva di fatto rinnegato, di fatto soltanto dopo neanche qualche giorno dalla firma di quegli accordi con l'impegno da parte del governo attuale di non attaccare, di smilitarizzarsi, di non tirare assolutamente niente, di fatto non è stato rispettato, diciamo, loro non hanno più tirato da una parte, però dall'altra invece è rimasto il SVUR, è rimasto il bombardamento e è rimasto anche poi giorno dopo giorno la presa delle terre che appunto di cui si parla, di queste terre, di questi confini che non vengono garantiti alla popolazione. Ecco, questi sono gli accordi che se non vengono raggiunti, se non vengono firmati le forze dell'attuale governo, ma parlo dell'attuale governo della striscia di Gaza omettendo una cosa che invece è molto importante. Come sapete la striscia di Gaza era divisa fino a un mese fa con il resto dei territori palestinesi e con il resto dell'autorità palestinese. Proprio prima di questo attacco militare, di questa operazione militare, c'era stata una riconciliazione tra le fazioni, che era molto molto importante per il popolo palestinese perché dopo tanti anni tornava ad essere, diciamo, con una unità nazionale fondamentale, diciamo, anche per la battaglia contro l'occupazione che ormai dura da 66 anni di tutta la Palestina e di tutti i territori palestinesi. Ecco, questa riconciliazione che di fatto avevano raggiunto quindi sia il governo di fatto di Hamas e quello dell'autorità palestinese nella Cisgiordania non era andato molto a genio a Israele. Questo purtroppo è una cosa di cui non si parla assolutamente, ma è stato poi di fatto il motivo fondamentale per cui è stata bombardata Gaza, è stata bombardata immediatamente dopo una serie di avvenimenti anche abbastanza provocatori in cui si continuano ad accusare Gaza come il demonio in questo senso, quando di fatto chi viveva anche dentro la striscia, per chi ha seguito un po' gli avvenimenti degli ultimi tempi della striscia di Gaza, non ci stavano continui lanci di missili, come si dicono, verso Israele, non ci stavano operazioni belliche, diciamo, nei confronti di Israele. Rimaneva invece la chiusura totale del territorio, l'embargo totale del territorio, una situazione economica ridotta proprio all'osso, proprio perché con queste chiusure, insomma, la popolazione non aveva più la possibilità né di costruire né di produrre le proprie materie. Erano già stati bombardati questi famosi tunnel in questi mesi precedenti all'operazione, quindi ecco, anche quelli che potevano essere la via per portare i materiali, non le armi, poi di fatto portavano gli alimenti, l'alimentazione alla popolazione, i materiali che servivano per la continua ricostruzione di quel paese. Ecco, questo purtroppo non era più avvenuto in quest'ultimo periodo, negli ultimi mesi, insomma. Ecco, quindi Gaza ridotta veramente in condizioni pietose. Ecco, basta, voglio soltanto dire quello che diceva la gente riguardo a questa operazione, che chiaramente non ama le operazioni militari, non ama la guerra e che per chi ha conosciuto insomma i palestinesi, forse il film qualche volta lo mostra anche. E la cosa che diceva la gente era: dentro la striscia di Gaza stavamo morendo in quest'ultimo periodo, ormai da troppo tempo stavamo morendo piano piano, e a questo punto se proprio dobbiamo morire, vogliamo morire dentro le nostre case, vogliamo morire con dignità. Quindi non so se la lettura del appoggiare di fatto una risposta anche di questo tipo, no? Rispondere con i missili, che poi comunque dal punto di vista militare non hanno niente a che vedere con i bombardamenti che ci sono stati sulla striscia di Gaza, però ecco, questa è stata la risposta compatta, anche se molto triste, di tutta la popolazione di Gaza. Ecco, se dobbiamo morire, moriamo nel nostro paese, moriamo con dignità, moriamo sulla nostra terra, moriamo con dignità. Ripeto, un discorso tristissimo, un discorso che però è un discorso con davanti sicuramente prospettive zero per tutta la popolazione, motivo per cui rimangono solo lì dentro e che dire, continuano a morire.